ricordate un fatto evangelicamente sicuro, eh? Giuda, uno dei 12 apostoli, tradisce Gesù. E come fa a tradirlo? Lo tradisce con un bacio. Dice infatti agli sbirri del diavolo, alle guardie mandate ad arrestare Gesù, quello che io bacio in fronte è lui. Arrestatelo e conducetelo via con cautela, perché non è come tutti gli altri. Gli dice Gesù, amico, con un bacio tradisci il tuo maestro. Non è detto che Gesù abbia risposto con il suo bacio. Non si è prestato a quel gioco losco. Non si è prestato a quel tradimento. Con un bacio tradisci il tuo maestro. E Giuda parte, butta via quei soldi, 30 monete d'argento, ricevute come mancia per il suo tradimento, butta via quel denaro e va in fondo alla valle a impiccarsi. Il maestro non ha trovato un posto dove imprimere il suo bacio. L'avrebbe dato a Giuda se avesse trovato un posto dove stamparlo quel bacio. Certamente, e avremmo un santo di più. Avremmo un Giuda una volta traditore e poi santo. No, non c'era posto per quel bacio, perché Giuda non si è pentito. O quando noi ci presentiamo peccatori fin sopra i capelli, ma pentiti. Gesù Cristo imprime il suo bacio di perdono, di riabilitazione. Sarà vita nuova, sarà una rinascita, sarà una risurrezione da morte a vita, dalla notte al giorno, dal buio alla luce, dalla morte alla vita. Ma lo spazio, è segnato dal pentimento, vero? Giuda in apparenza si è pentito. Quando ha capito il delitto, se si fosse pentito, non sarebbe andato a finire tra le morse del suicidio. Pentimento. Ditemi voi se questo lento martirio, questo martirio a fuoco lento, è o non è delizioso? È delizioso, fratelli, perché ogni volta che tu ti penti, dai al fuoco le tue miserie e ti raggiunge la misericordia di Dio. Il bacio del perdono, il bacio della misericordia, e con quel bacio tu puoi prendere sonno. Nessuno può sostituirlo, quel bacio, ne manco tua moglie. Nessuno, ne manco i tuoi bambini. Ci vuole il bacio di un Dio innocente, infinitamente innocente, perché il tuo peccato sparisca. Non bastano i baci più affettuosi della moglie più cara e più bella. Non basta l'innocenza del bacio di quei bambini. Ci vuole il bacio di Dio. L'innocente assoluto, l'assoluta innocenza, accapararcela tutte le sere, questa innocenza, questa misericordia, è cosa deliziosa, difficile ad esprimersi. Sant'Agostino, in quel grosso libro delle Confessioni, ha tentato di descrivere la gioia della sua rinascita. Fino a 35 anni e mezzo ha fatto una vita vergognosa, di scandalo. Da quel punto in avanti tutto cambiato, e cerca di descrivere quello che prova in questa situazione di innocenza riconquistata. Ah, che bello, è passare dall'inferno al paradiso, è passare dalla palude del peccato alla chiarezza, limpidezza della grazia. Fuoco lento, martirio lento, gioiosissimo. Vi dicevo che i martiri, quelli morti di morte violenta, non risulta che nessuno sia morto con le mani nei capelli, disperato, nessuno, nessuno, nessuno. Ma morti felici e contenti, tutti martiri di morte violenta o di morte lenta, martirio di fuoco violento o martirio di fuoco lento, tutti sanno. Hanno seguito questa strada del pentimento, della conversione, una conversione che è di tutti i giorni, un pochino meglio, un tantino meglio, oggi, domani, dopodomani, un passettino da Montanaro per arrivare alto. Ma ogni giorno questo bacio d'amore cerchiamo di accapararcelo. Tutte le sere, non saltatene via una, che potrebbe essere l'ultima. Oh povero Giuda, se dopo l'arresto di Gesù e la condanna a morte, lui l'avesse cercato, avesse cercato di incontrarlo mentre passava da Erode a Pilato, da Pilato a Erode ancora, mentre passava dal tribunale di Ponzio Pilato al Calvario per morirvi crocifisso, avesse cercato di incontrarlo, avesse cercato quel volto, avesse mostrato soltanto per un attimo il suo pentimento, Cristo l'avrebbe abbracciato col suo sguardo e avrebbe mosso le labbra al più bel sorriso, al più bel perdono. Invece di andare in cerca di Cristo, è andato in cerca di un capestro. O con te, Gesù, o morire. Non c'è via di mezzo.